Scuola in controluce. Io voglio fare la maturità. Stavolta ce la faccio. Il mio ultimo appello. Mi hanno bocciata. Non sarò più l'ultimo. Io voglio farcela. Il 98,9% dei ragazzi che a giugno ha dato la maturità è stato promosso. Un buon dato quello comunicato nel fine settimana dal Ministero della Pubblica Istruzione, in leggera crescita infatti rispetto all'anno scorso. Ma cosa ne è di quel 2,1% di ragazzi che invece è stato bocciato? Che ne è di quelli che non sono stati affatto ammessi? Qualcuno di loro lo vedremo in TV in un nuovo programma che parte proprio oggi. In apertura avete sentito il promo. Per gli altri invece la speranza è che a settembre si siano ripresentati a scuola, che non siano andati ad ingrossare le fila di quel 18% di studenti che in Italia al diploma non ci arriva, a volte non arriva neanche alla terza media. Parliamo di quasi uno studente su 5, cifra che l'Europa entro il 2020 ci impone praticamente di dimezzare, studenti che si perdono per strada, che le scuole lasciano in qualche modo andare fra indifferenza e scarsità di risorse. Ed è di questo che parliamo oggi in Scuola in Controluce, lo facciamo con il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria. Buongiorno Rossi Doria. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, lei sa molto bene di che cosa stiamo parlando, è stato a lungo infatti un maestro, è stato il primo maestro di strada e fondatore del progetto Chance a Napoli, un progetto davvero molto bello di cui in questo spazio abbiamo parlato spesso in questi anni, perché si occupa proprio del recupero di ragazzi in difficoltà. Prima domanda, ce la faremo davvero a dimezzare o quasi questo 18% entro il 2020? Ma la speranza è che se non ci arriviamo, ci arriviamo vicini. Pensi che questo 10% lo inseguiamo dalla prima dicitura dell'agenda di Lisbona nel 2000 e quindi è una battaglia. In realtà i dati dicono che c'è una leggera decrescita dal 23 circa al 18 e ancora in decrescita per i dati che abbiamo al Ministero in queste settimane. Però va sostenuta questa decrescita. Alcune azioni nel mezzogiorno, dove c'è la massima concentrazione di dispersione scolastica, il ministro Profumo con il ministro Barca la stanno facendo, ci saranno 120 circa prototipi contro la dispersione nelle zone di massima concentrazione del fenomeno, capeggiati questi prototipi dalle scuole ma d'accordo con il privato sociale. E poi ci sono esperienze anche delle regioni e dei comuni e c'è in generale una grande spinta di quel bell'esercito civile che sono gli insegnanti italiani nelle scuole, e però ci vogliono politiche pubbliche ancora più forti, vorrei dire aggressive, nel senso certo. Che bisogna colpire in maniera profonda. Ecco Rossi Doria, lei qualche giorno fa sulla stampa ha parlato della necessità di costruire nei territori più difficili e soprattutto quindi al sud delle comunità educanti. In realtà alcune esistono già, funzionano anche molto bene pur fra mille difficoltà. Vorrei che ne ascoltassimo insieme una. Francesco Paolo Di Giovanni coordina ormai da 20 anni centri di ricreazione nel quartiere Zisa di Palermo, a ridosso del centro storico, un quartiere problematico. Sono centri finanziati dal comune di Palermo. Sentiamo il suo racconto. Sul nostro territorio la dispersione scolastica continua ad avere dei numeri a due cifre. Sono ragazzi che vengono da famiglie multiproblematiche o da famiglie a bassa reddituralità. E comunque da famiglie che vivono molto nell'area del nero e purtroppo anche molti dentro circuiti legati alla criminalità. Quindi i ragazzi che entrano nell'area della dispersione scolastica sono sicuramente i ragazzi che hanno minori opportunità familiari, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale. Ma lei quando li guarda negli occhi questi ragazzi, che cosa vede e come cerca di riaccenderli in qualche modo? Ma sono ragazzi di grandissime potenzialità e anche di grande intelligenza in molti casi, che non hanno avuto le opportunità, non hanno le opportunità perché magari dal punto di vista caratteriale hanno problemi relazionali. Quando si entra in una logica di dialogo per far uscire ciò che di buono c'è in questi ragazzi, noi poi abbiamo dei risultati sorprendenti, sia poi sul versante scolastico sia sul versante artistico e culturale, perché per fortuna la creatività nelle persone non è soltanto legata a una dimensione economica. Quindi offrire degli stimoli a questi ragazzi in moltissimi casi ha prodotto dei risultati molto interessanti. Tra i casi più significativi stanno quelli di un ragazzo che circa 18 anni fa abbiamo seguito da una situazione di dispersione scolastica, aveva abbandonato gli studi alla quinta elementare, l'abbiamo riportato a scuola, abbiamo raggiunto l'obiettivo della licenza media, abbiamo inserito in un percorso di formazione attraverso i tirocini formativi e adesso fa il cuoco in un ristorante di Parigi. Quale potrebbe essere il passo in più? Non soltanto interventi di tipo assistenzialistico o riparativo per i ragazzi che hanno problemi di prosecuzione degli studi. In questo momento purtroppo a Palermo non c'è neanche questo, perché il nucleo che si occupava di dispersione scolastica all'inizio di quest'anno è stato dimezzato nell'organico. Insomma, i soldi non ci sono, le casse sono vuote, sia quelle degli enti locali sia, come sappiamo, quelle dello Stato. Rossidoria, che si fa senza soldi? Un po' di soldi li stiamo recuperando insieme alle regioni. I problemi che dice il collega di Palermo ci sono, però c'è un'inversione di tendenza di questo tipo, che la nuova progettazione europea fino al 2020, che vuol dire cassa delle regioni e dello Stato fino al 2022, quindi un'attesa di un decennio, potrà sostenere i prototipi nelle zone tra cui quella di Palermo. Quindi naturalmente poi bisognerà sperare che la situazione dei debiti pubblici migliori e che ci consenta qualcosa in più dall'organico funzionale delle scuole autonome. In una battuta, Rossidoria, secondo lei perché la scuola si lascia scappare così tanti ragazzi? Qual è il problema fondamentale? Perché ovviamente ce ne saranno anche tanti, insomma. Ma in parte c'è un elemento di rigidità del nostro sistema scolastico, perché non possiamo più dare stesse cose a persone diverse, come già diceva Don Milani 50 anni fa, e dall'altra parte c'è la povertà e la povertà di istruzione di intere zone del paese, per cui la scuola non è un valore accreditato e consolidato, e quindi ci vogliono politiche sociali e di welfare generalizzate, prolungate, costanti nel tempo, e al tempo stesso una scuola che sappia andare verso ciascuno in maniera anche diversa. Certo, grazie mille al sottosegretario dell'istruzione Marco Rossidoria, gli facciamo davvero i nostri migliori auguri, perché questo è un campo importantissimo che ci sta molto a cuore. E lo dicevamo in apertura, proprio oggi esordisce in rete, poi da sabato su Italia 1, un nuovo programma TV, il primo Learning Show, guai a chiamarlo reality. 16 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che hanno lasciato la scuola superiore al quarto anno per tante ragioni diverse, che ora vengono seguiti in uno speciale campus da professori veri. Intento è quello di portarli davvero alla maturità. Il preside di questa scuola è lo scrittore, il preside per modo di dire naturalmente, e anche per tanti anni professore universitario, Walter Siti, che stando con questi ragazzi si è fatto un'idea molto precisa del perché lasciano la scuola. Io ho l'impressione che si sia un po' sclerotizzata, diciamo, nelle sue vecchie forme, e che queste vecchie forme non riescano o riescano malamente a intercettare l'intelligenza dei ragazzi. Perché molti ragazzi che non sono affatto stupidi, però esercitano la loro intelligenza in cose che hanno ormai poco a che fare con i programmi tradizionali della scuola. E quindi ho l'impressione che per molti ragazzi la scuola risulti qualcosa di incomprensibile, di un po' inutile. E quindi sono, come dire, sono spinti ad abbandonarla al primo momento di crisi. Potete riascoltare questa puntata sulla pagina web di Scuola in Controluce. Ci risentiamo lunedì prossimo alle 13:30. Domani invece torna Italia in Controluce.